antenne attaccate, ma io una volta l'ho fatto e praticamente non scalda, la ventola rimane stabile ma non scalda, quindi immaginati tu con 5 ampere, 8 ampere, lui c'ha una radio mi pare di a 15 watt, con 15 watt quanto sono 8 ampere, 7, 8 ampere, non cosa scalda, ma lui l'ha fatto, ti ripeto, solo per la rumorosità, perché lui c'ha un 25 ampere, non c'ha un 35 ampere, ma siccome dice che la ventola è molto rumorosa, e allora l'ha fatto per quello. Io quello che ho della CEP, che è un alimentatore professionale, super professionale, quello da 60 ampere nominali e ne può dare 120, senza ventola né niente, perché se non lavorano neanche al 50% dei transistor che ci sono finali di quell'alimentatore. L'hanno sovradimensionato e tu lo trucchi, io non l'ho mai visto scaldare per l'alimentatore, vabbè massimo arriva a 20 ampere di assorbimento, ma ne può dare 60 uso 24 ore su 24 continuativo, eppure io non l'ho mai visto, manco Rubello ricocca quando un alimentatore è costruito bene. Quelli dei computer sono sempre un po' tirati, però considerando se c'è un 500 watt quanto ne consuma di corrente quel baracchino, poi ne consumi 6 ampere, ma volendolo male, proprio trattandolo male, pare se sei in disaccordo l'antenna e cose del genere, e se no non lo so, per cui l'alimentatore se è un 500 watt e ne stai chiedendo 5 watt, 10 watt o 15 watt, a quanto lo stai sfruttando? A niente. Ma infatti sono d'accordissimo con te, ma guarda, io ho anche il PS50, io nel PS50 una volta solo ho visto la ventola attaccarsi, rete al trasformatore, capito? Ma una volta, perché stavo facendo delle prove, quindi una volta, se no non si attacca mai la ventola, capito? Perché a parte che è fatto in una maniera particolare, tutto forellato, il case, quindi c'è anche una bella dissipazione, ma se lo invece scaldare parte subito la ventola in automatico, ma non l'ho mai vista, capito? Perché al 430, la linea del 430 c'è il PS50 collegato, mentre al 140, al 430 numero 2 e al 757 c'è il prox da 60 ampere, capito? Anzi anche al 2U c'è collegato il prox, però ti ripeto non scaldano, lui l'ha fatto solo perché è rumorosa la ventola, tutto qua. Avanti Fabri. Sì, perché quindi non ha, perché no, 500 watt mi sembrano pochi, perché 500 watt a 12 volt sono circa 6 ampere, qualcosa del genere, perché la potenza è uguale P per V e quindi siamo intorno ai 6 watt, 6 scusa, 6 ampere, 500 watt dovrebbe essere, se non ho sbagliato così il conto dovrebbe essere così, Fai così Fabri, perché se io abbasso, cioè, wow, ho abbassato la potenza, poco fa ho abbassato la potenza a 7 watt, a 7 watt e stavo assorbendo, c'è l'amperometro, facciamo che non sia preciso del prox, ma stava andando 5 ampere, si muoveva quasi a 6 ampere, quindi siamo lì. Fabri, dimmi. Hai fatto il conto un pochettino limitato, 500 diviso 12 fa 41 ampere, per cui stiamo parlando di un amperaggio molto grosso, V per I potenza come hai detto tu, per cui fate un conto, 500 diviso 12 sono 41 ampere teorici, naturalmente poi effettivi te ne dà molti di meno. Per cui se tu un alimentatore da diciamo 41, che poi saranno 30, e ne stai chiedendo 7 di ampere, lo sai, appena un soffio li stai chiedendo. Sì, il calcolo è quello, però sto dicendo io, robe, che in pratica con 7-8 watt l'amperaggio è di 5 ampere, cosa vuoi che sia? A quando arrivi a 30, quanto vieni voi, quindi alla fin fine la ventola non serve a niente. Quello che voglio dire, se un piccolo dissipatore ce l'avrà nel coso, nello stadio finale, questo switching, piccolino, io sono sicuro solo tu che manco a 30 gradi arriva. Certo, se tu gli chiedi tutta la potenza che richiede, a quel punto scalda parecchio la ventola, l'estrattore di calore deve rimettere per forza, però secondo me no, può scaldare anche. Naturalmente stiamo parlando di un alimentatore costruito come deve essere costruito. Se poi le parti di queste cose sovraccaricate, transistor tirati alla morte per avere qualche amperaggio in più, allora è un altro discorso. Vabbè, io ho l'RM Italy da 800 watt HF a 24 volt, ho due alimentatori accoppiati e fatti bene, ma stiamo parlando di 700-800 watt e assorbe intorno ai 35, 30, 32, 30, 30 ampere, ma stiamo parlando di potenza. Cercare di far vedere che con una dimensione per dire, di 30 centimetri riescono a guadagnare tutta quella potenza, invece li stanno sovraccaricando, è meglio avere meno potenza però affidabilità, come succede su altre cose, su altri tipi di discorsi, anche amplificatori domestici e così l'alimentatore. Io sono sempre stato contrario agli switching perché sono troppo sollecitati da agenti esterni, oltre che radiofrequenza, bastano un temporale anche a 10 km, uno schizzo, tic, e te lo fa saltare. Finché vanno bene sono eterni, ma bastano, sono troppo sensibili ai problemi. Mentre quelli a trasformatore, c'è da dire, quelli a trasformatore, se ti succede un componente, ti parte un componente, male di colpo ti sale la tensione, anziché 12 te ne dà 20 e bruci l'apparato. Quelli switching, al contrario, si brucia e si ferma di lì e ti lascia lì mette solo a piedi. L'unico difetto è quello. Però il trasformatore, se è costruito bene, durano centinaia di anni. Guarda quelli della TV, io ho avuto il PS430 per tanti anni, poi l'avevo cambiato, avevo preso il PS50 ed è sempre Fabri quello che avevi fatto quel lavoretto del fusibile Zume, sempre andendo, ce l'avrò 10, forse di più di 10 anni, non si è mai fermato, sono dei Caterpillar, poi un altro a un Diamond, lo stesso da 35 ampere che funziona molto bene, ma quello che viaggia molto è il Prox, capito? Quello è micidiale, ce l'avrò una decina d'anni e ancora sta andando, speriamo che non si blocchi, se no già ne abbiamo alimentatori. Ma chi c'era oltre a Fabrizio? Gianfranco, ancora queste memoria stai facendo, basta, tanto non ne hai più memoria, No, quando me lo dico io sono ricoglionito, è qualcosa di spettacolare. Infatti mi volevo fare un circuito di memoria da un paio di giga e mettermelo in testa, come fanno nei film di fantascienza. Però il sistema operativo è troppo vecchio per fare quell'operazione. No, adesso sto facendo un tentativo sempre per questo cavolo di cosa, sto installando la mia pennetta ADSB per vedere cosa succede a quel PC, se l'accetta, non penso che l'accetti perché è un normale apparato, un normale ricevitore, io. Vado anche a Fabrizio se c'è la possibilità di costruire una schiena, perché tra poco mi trascinerò a posto della gamma e me ne metterò due volte. Sì, vi ringrazio, faccio due buchi, questo tutore con una vite fine barra senza fine e ti tiri come vuoi, ti regoli la mattina e poi vai in giro, ti farò poco. Magari. Stavo anche riparando un cancello e poi mi sono dovuto aggrappare al cancello per alzarmi, roba da matti. Questo è l'effetto di questo clima che ci sta massacrando veramente. Vabbè, sono quasi le 8, io me ne sto andando a cena. Ci sentiamo più tardi, dopo, non lo so. Saluti a tutti circolari. No, pensiamo già fa, io mi aspetto che arrivi la truppa e poi ci facciamo questa mangiata di orecchiette con broccoli, cime di raffa, un po' di carne e ci guardiamo la partita, perché c'è la Juve stasera a canale 5 e quindi mi guardo, abbiamo già posizionato due televisori perché c'è le donne, ci vogliono guardare la maglia dei Filippi e noi ci guardiamo la partita. Va bene, ciao, allora buonasera e buon tutto. A proposito di chiodi, Roberto, non ne ho trovato neanche in via Marsiglia di questi da fondi lunghi, per mettere per bloccare il finto prato, già mai capito dove c'è posizionata la mantova con la trantenna. Non ne ho trovato, c'è questi da fondi a U che ti va di Gagì, ti va di Ciampà, che servono appunto per le tende da campeggio. Poi lo sto cercando, quei chiodi lunghi, domani mattina scendo da Carboni, sicuramente ce li ha. Sì, adesso ti saluto Gianfranco, ciao Gianfranco, avevi sentito anche io, faccio ora, poi vado a guardarmi la partita, vai Fabri per i saluti e poi riprendo con Claudio. Sì, va bene, divertiti, io tanto non credo che me la guardo partita, anche perché non me può fregare niente. Ma cosa hai detto Fabio, anche perché? Non me frega niente. Anche pure c'è un figlio giocatore, non ti ha indirizzato nella passione del calcio. Non me frega niente, brutto zero. Vabbè, noto comunque che tante persone si stanno disinnamorando del calcio, ma tantissime persone. Prima dici, ma come, non te la guardi, un bel di genere, era raro, adesso ne sento tanti, molte persone, soprattutto giovani che prima vivevi di calcio, adesso ci sono altri divertimenti da iniziare, da internet, del calcio, non ne ho tutti nulla. E qua stavo dicendo, li ho presi io da poco, quando, una settimana fa, 10 giorni, dai, chissà cosa gli hai chiesto tu, sono quelli con la testa, con la chiave da 10, mullone da 10 sopra. Sì, che ci vede sopra il finto prato questo bullone da 10, io voglio che non ci veda, capito? Perché quello è il pezzo dove sta Filippo, perché sennò ci mette a scavare. E allora gli ho fatto un pezzo tutto suo particolare, però devo bloccarla perché se magari arriva qualche raffica di vento la solleva, capito? Cosa gli hai chiesto? Tu gli ho chiesto dei chiodi lunghi, tipo tirafondi. No, chiodi lunghi non saranno massimo 5 cm, quelli che mi ha fatto vedere Zingatti, lucidi, infatti sembravano d'argento, talmente erano belli, però erano corti. Poi gli ho detto, no, fammi, e mi ha tirato fuori queste specie di tirafondi, non so a cosa servivano. Li ho presi io, ho detto 10 giorni fa, ne ho preso una quarantina giù per il campo, perché se vai da Carbone probabilmente ti deve dare la, non credo che li venda a chilo. Ti c'ha le scatole già pronte, lunghe, ci sono sicuri. Danilo mi ha detto che da Bricome li vendono anche singolarmente, fare 0,30 l'uno o 0,20, non me ne ha messo. No, allora domani mattina ce ne vado via Marsiglia, glielo dico. Quindi per chi aveva 10 già va bene lo stesso. Se si vede il puntino non le fa niente, al limite le metto qualche cosa per coprire, se no è brutto. Va bene, qualche anche domani mi faccio rasare sto pezzo di prato, boh. C'è l'erba troppo alta, il prato alto c'è, se no poi non la raserba, non taglia. Io ho quello piccolo, invece spugliatore la rovini. Sta sempre più Monsanto, sta crescendo, l'ho bella tagliata venerdì scorso, venerdì, tutta bella, pulita, ordinata, ha fatto un paio di giorni di bel tempo, poi è iniziata a piovere di nuovo, si è sollevata, minchia. Ma scusa, tu devi bloccare l'erba sintetica, il tappeto sintetico? Sì, ho preso, allora 2 o 4 ne ho preso, 4 tappeti che sono da 5 metri, no, 4 metri, nel cazzo sto dicendo, 3 metri, mia Domenico, aspetta che abbasso, sono da 3 metri per 2 mi sembra. Sì, ma questo tirafondo quando glielo metti non si vede, certo se ti siedi col sedere te ne accorgi e lo senti, però siccome l'erba ci avrà uno spessore, il prato ci avrà qualche, sarà almeno un paio di centimetri mi immagino, quando glielo metti non si vede più, lo dici sino a fondo, sino a toccare giù. Sì, no, è bello, l'ho preso al Bricco, ma è bella grossa, è bellissima. Da lontano sembra proprio erba, siccome c'è dalla parte dove c'è il Calverio, no? C'è un'altra stanza lì grande che ancora non è finita, eccetera, la finirò piano piano. E il cane sta sempre lì quando c'è sole, e sicuro che è nella terra, perché lì non ne ho messo di prato, l'ho lasciato proprio così perché mia moglie va a tendere, eccetera, capite tanto la calpezza. Allora per essere diciamo simile a quella vera gli ho fatto un prato sintetico, è venuto anche molto bellino, carino, però devo bloccarla perché se si mette il vento sono sicuro che la solleva la striscia, capito? Comunque le chiedo, cosa gli ha chiesto? Il tirafondi, così le dico. Ehi, a tirafondi ce ne ha preso l'altro, a meno che non le abbia finite, ma ne aveva un po', non penso che tutti stiano andando a comprare tirafondi. Quelli sono un po' zingati, perché i chiodi che ti vendono sono in ferro, rugginoso, dopo un po' si marciscono tutto, no, non è che siano tanto belli, tu mi dirai, sono più bassi, piatti, però come lo fai entrare dentro? Si marcisce immediatamente, nel giro di qualche mese è tutto pratico, ma per questo è tutto zingato, lo mandi giù e è avvittato, tra l'altro c'è la fettatura autofilettante, infatti io l'ho fatto entrare col martello. cancello, è un colpo, c'è niente di te, rimane questa testa appena appena che esce, ma con le mani anche sui resti. Va bene, va bene, hai fatto bene a dirmelo. Quindi c'è la recette, Fabrice Paolo con Domenico, c'era un giorno, sta a sentire a Paolo. Sto ascoltando. Domenico, ogni volta che entro, eccoci, ti è diventato un poco rincoglionito. Stavo dicendo poco fa, stavate parlando degli alimentatori, il problema degli alimentatori, sapete, che sono i condensatori dopo un po', che vanno sostituiti, e il problema è quello. Mi è capitato più di uno, anche a Radio Di Gianni, per esempio, sull'alimentazione, che stava portata sulla Sassima, con un errore riparato, era solamente i condensatori di regolamento della partita. Sì, che ce l'ha uguale al mio, infatti il mio sicuramente il Franco vorrà cambiato, il Proxel è quello da il 50-60, come si chiama quello, ce l'abbiamo uguale, sì, me l'avete cambiato questo condensatore, l'alimentatore va bene, l'ha portato, non ha ne bucato bene, porca carità. Tu quel condensatore in genere qua, faccio anche quello, ne ho un altro, lo stesso quello l'abbiamo dato su, però abbiamo dato altra roba, però anche quello lì lo stesso, ha iniziato a dare tensioni molto alte e probabilmente è successo qualcosa sui condensatori, capito, hanno perso il loro valore, perché il condensatore in un alimentatore, oltre che livellare la corrente, semplicemente tu, una volta che il ponte di greti raddrizza la corrente, e devi raddrizzare col ponte le semionde, però poi è sempre pulsata, là c'è il condensatore di livellamento, quel condensatore non livella solo, ma innalza anche un po' la tensione, quindi molte volte se ti si rompe, non rischi, se non è proprio perfetto, perché perdi il valore, oltre che non fa più livellamento, ti innalza anche la tensione dell'apparecchio. E quello per vedere come sta lavorando lo vedi solamente con l'oscilloscopio. Con l'oscilloscopio riesci a vedere proprio se è lineare, se è livellata, proprio riesci a vederlo bene. Se non inizi a vedere la componente. La fritta, quando ero CVL facevo più pirata che le CVL. Ero amico di Piras, ma aveva toccare morto. Stavo dicendo una cosa, Roberto, a proposito, ma novità, nominativo, niente ancora? No, allora, prima nominativo deve arrivare la patente, dice che hanno problemi informatici, adesso te la mandano via mail, la patente dice entro i primissimi di dicembre te la mandano, teoricamente dovevamo mandarti anche l'autorizzazione generale nominativo tramite Roma, invece no, ancora non siamo pronti, eccetera, perché a marzo 2021 è uscita la legge per la facilità di cosa chiama, disbrigo della burocrazia, direttamente passava tramite loro, invece no, lo deve mandare di nuovo al Ministero, a Roma, la richiesta, eccetera, eccetera. Ma è da generale, lasciamo mischiare, me e Gianfranco l'avevamo fatta sempre, nel 2025 dobbiamo rifarla, sì, vabbè, noi avevamo fatto tutto, avevamo fatto la richiesta, ce l'avevano mandata a cartaccio, io ce l'ho cartaccio legato alla patente, alla licenza. Va bene, già mangiato il Fabri? No, ancora no, infatti adesso fa un po' chiudo e me ne vado. Ma il caro lo state pagando regolarmente, Claudio e Fabrizio? Cosa? La concessione regolarmente l'ha pagata. Senti, non la paga ogni anno, io adesso alla prima settimana di gennaio sempre la pago, 5 euro. Sempre c'è una cartella, tutti i versamenti dal 93 fino ad oggi, tutti ben allegati anno per anno. Ma io lo capisco, una cosa ridicola, il CB era 12 euro, adesso l'hanno tolto il CB, che diciamo è una cosa di divertimento, perché mentre la radiamata è una cosa un po' più importante, diciamo, dove ci sono anche delle cose più rischiose, 5 euro ancora non l'hanno tolto, la cosa ridicola è quella. Vabbè, la tassa è quella lì, ma un radiamatore non paga solo quella, no? Poi c'è l'iscrizione all'ARI, perché la devi fare, oddio, non è obbligatoria, ma è meglio sempre farla, perché se sei per dire in un palazzo come Fabrizio, come te, come vabbè, io gioco a terra, non me la fotti nulla, ma dico certezza è meglio che sia iscritto all'ARI perché c'è l'assicurazione, certo sono 80 euro all'anno se paghi di iscrizione ARI, capito? Più le 5 euro al mese, quindi c'è un costo annuale per l'attività amatoriale, noi solo 12 euro. Sì, no, ma poi io stavo leggendo le problemi adesso che mi ha tolto il coso dell'ARI, c'è scritto socio ordinario 78 euro, familiare 39 e arrivi fino a 120 euro, poi quota sede 58,50 euro, ristorno, non so cosa sia, 19,50 euro, adesso sono queste spese. Ah, chiedi al presidente, non c'è nulla io. Dimmi, stavo ascoltando ma sotto orecchie, dimmi. Allora, stava parlando di quote ARI, se ti iscrivi all'associazione radioamatori, c'è scritto soci ordinaria importo quota 78 euro, poi quota sede 58,50 euro, ritorno 19,50 euro. E quello che una parte va alla sede, una parte va, lo storno è quello che va alla sede, l'altro va alla cosa, all'ARI Italia. Però poi ovviamente c'è la quota che tu paghi, se sei parenti, figli Ah, quella è la somma, quota sede, quota ritorno è la somma di quelle per arrivare a 78 euro, no? Pensavo ci pagassero anche queste altre quote in più. E poi c'è scritto servizio diretto QSL 80 euro. Quello è servizio diretto se vuoi QSL, se non sei socio-ARI mi sembra. Sono tante cose, sì, tante cose, quindi se uno vuole solo il QSL poi si paga di meno. Diretto QSL che te ne mandano direttamente a casa, sono tante opzioni, ma. Poi c'è immatricolatore nuovi soci ordinario e RC 5 euro, cioè se io mi dovessi iscrivere quanto devo pagare? 78 euro, perché ci sono un sacco di voci in questa roba. Non sbaglio, sono la quota, forse 5 euro la prima volta, non me lo ricordo, no, forse la prima, non me lo ricordo, ma abbiamo il cassiere che te ne va tutto, boh, io non ho la voglia, non c'è quelli di soldi. Forse l'affiliazione sono come quando ti iscrivi a un'associazione sportiva, c'è l'affiliazione che quella ti rimane per sempre e poi ogni anno paghi la quota di iscrizione, così dovrebbe essere. Se non sbaglio 78 euro se non sbaglio. Sì, Roberto, ho detto 78 euro, poi se volevi qualcosa più dettagliata richiede a Fabrizio e lui. È presidente della sezione, quindi lo sa migliore di me, però io quando ero iscritto pagavo 78 euro e 5 euro al mese di sezione, insomma era 7, capito? Però così poi non so se aumentate, però ti ripeto, è meglio sempre farla, soprattutto per chi abita in condominio, capito? Quando inizia ad avere un impianto come c'ha Fabrizio, è giusto che sia socio-ARI e che abbia un'assicurazione sua particolare, che lui ce l'ha per le antenne e per tutto, perché è sempre meglio, ma uno come me che è a terra, ce l'hai visto dove sono io, quindi cosa me ne affrutti? Io c'è uno scavatore, io fai un buco qua, metti un plinto, è stata una torre di 30 metri, cosa? Quando ne viaggi, viaggi in campagna, cosa? C'è visto il terreno che c'è, e quando si dà di butta, mi va a terra, non fa nessun danno, capito? Ma quando inizi a avere un impianto così, che è sopra un palazzo di 4-5 piani, o sopra dove ero io, è pericoloso, bisogna tutelarsi, capito? Vabbè. Ma cosa ti copre l'assicurazione? Se la cade l'antenna sopra qualcuno o altre cose, Fabrizio? L'assicurazione copre i danni che l'antenna può provocare, capito? Io poi c'ho un'assicurazione mia dopo quello che mi era successo, ma l'ho fatta con un'assicurazione di Milano, l'ho fatta con un radioamatore, che è assicuratore, fatta appositamente per noi, ma ho coperto tutto, sia poi fatta anche quella in colui e tutta un pacchetto, furto, incendio, ho fatto aumentare sempre più, prende fuoco per colpa mia, non so quanto, per pagare anche gli appartamenti a fianco, vabbè, quello un po' come tutto, però quella dei radiatori è tutto specificato, puoi avere anche antenne scaducate, se cade in terra, ma oltre che pagare come quell'ARI, per in più mi paga anche, che adesso mi togli il traliccio, a me la ricostruzione del traliccio, delle antenne, o come era successo un fulmine, mi spacca un'apparecchiatura, mi rompe il 5.000, adesso succede un problema, e a me è assicurato, capito? Tu vedi ogni tanto mi metto questa antenna dinamica, smonto, riparo, per i cambi potrei chiederglielo, capito? Però non chiedo per un anno di di 50, di 100 euro, perché una volta, la seconda ti buttano fuori. Io la tengo perché voglio fare l'onesto, in caso che veramente succeda una cosa grave, che adesso un fulmine mi brucia la radio, a quel punto io la debito, oppure mi cade il traliccio, a quel punto è tutto il traliccio e mi fa di tutto quanto. E poi un'assicurazione molto particolare questa. Questa è quella extra che ti sei fatto tu, scusa, mi hanno distratto, un attimino mia fila, cioè tu se vuoi ripetere velocissimamente, allora l'assicurazione dell'aria ti risponde soltanto se ti cade l'antenna in strada e ammacchi una macchina o fai male a qualcuno, confermi? È responsabilità civile solamente. Se invece ti cade un fulmine non ti baga nulla, ti devi fare un'assicurazione a parte come te l'hai fatta tu, confermi? Confermo. Sì, però aspetta, c'è calamità naturale, come è successo a Fabrizio, ma a noi, a Carbonazzi, 6 anni fa, era successo che il fulmine è accaduto vicino alla cabina elettrica, aveva incendiato la cabina, ha causato un danno allucinante a tutto il nostro condomino e alla torre, quella a fianco, quella più alta, e lei me l'ha pagato, a me mi aveva pagato l'80% del valore praticamente del danno che avevo subito. Sì, vabbè, quello è certo, in Italia molto c'è la responsabilità civile, e chiunque fa un danno lo deve pagare, e se ti fa un danno l'Enel, è ovvio che te lo paga l'Enel, se è dimostrabile, se te lo fa chiunque te lo faccia, se lo dimostri te lo pagano, e così tu, se dimostrano che con l'emissione della tua radio gli ho bruciato un televisore, per assurdo, se lo dimostri gli paghi la televisione, il danno chi lo fa lo deve pagare, poi quando ci rifà l'assicurazione, Ari, la cosa più importante è assicura che se ti cade il traliccio, che se ho spacco una macchina la paga, ammazzo una persona e la paga, come responsabilità civile, dove tu c'hai la responsabilità penale di quello che fai, ovviamente, poi i danni li paga, poi puoi assicurarti un po' come la macchina, tu in macchina se vai a sbattere non hai problemi, l'assicurazione anche se per colpa tua paga il danno, poi se tu vuoi che ti paghi anche i tuoi danni ti fanno a casco, pari di più, per un caso che ti sbatti ti rimborsano anche le tue spese, però stai facendo una pulizia in più, un'assicurazione in più, e quella praticamente che io ho fatto. Sì, esatto, no, era bene, era successo un casino, avevano mandato un perito, un ingegnere bravissimo, molto gentile, ha fatto un grandissimo lavoro, ha periziato tutti i danni, ha fatto un buco nel giardino allucinante, ha preso a fuoco un albero, ha bruciato tutte le cavità che arrivavano ai contattori, ti dico un casino, e poi elettrodomestici, a me mi ha bruciato FT1000D, mi aveva bruciato il computer, la lavatrice, la sala da bagno, il frigorifero, è stato un casino, aveva fatto 2 alimentatori e in pratica poi avevamo fatto tutto ognuno aveva fatto aveva segnalato ciò che aveva e il perito è venuto e ha periziato tutto, questo è bruciato, ok, vediamo, questo è bruciato, ha fatto tutto l'elenco e ti prende nome e cognome, documenti, bimbomba, eccetera, e uno, noi eravamo 70, allora 70 avevano subito un danno, a 70 persone l'Enel l'ha sborsato, io avevo un danno intorno ai 2500 euro perché la radio era usata, intorno ai 2500 euro mi aveva dato l'80%, mentre altri avevano preso una barca di soldi, anche uno oggi mai gli si è incendiata la casa perché aveva abitato un po' il televisore, figurati tu, però come stai dicendo Fabrizio, responsabilità civile, poi è chiaro che ognuno poi deve rispondere del danno penale che fa, capito? Sì, ma per capirci, sì, perché a me a Sant'Orsola quando avevo fatto un sacco di danno, avevo bruciato frigoriferi, tutto, avevo fatto riparare, cambiato la circolazione, era intervenuta, perché quando era successo il topo si aveva morsicato i cavi, quindi al posto della 220 si è arrivata arrivati il barato 80, praticamente non ricordo la sua, comunque al posto noi ci arrivo il neutro e la fase, no? Erano arrivati due fasi, quindi un'altra fase aveva toccato il neutro e quindi praticamente sono arrivati invece di una fase un neutro, sono arrivati due fasi dentro casa, ha fatto un casino che aveva età a fare, ma come a noi mentre Sant'Orso aveva potuto e quindi aveva libero, era dimostrabile perché non eri da solo, era tutto il quartiere, quindi sono intervenuto, hanno riparato successo a noi, addirittura hanno fatto la cabina nuova lì a Carbonazzi, l'ho presa a fuoco, molti vigili a fuoco, carabinieri, polizia municipale, un casino. E poi praticamente hanno tutto rifatto nuovo, avevano messo anche trasformatore nuovo e nel mio palazzo l'avevano messo quasi tutti i contattori nuovi perché aveva bruciato tutto. Un danno allucinante l'ha fatto Roberto, un danno allucinante, per 20 metri, 30 metri, se prende il palazzo lo apre in due, ti dico, una bomba, il cancello elettrico aveva crepato, il motore del cancello, ma saltato in aria il cancello, me lo ricordo, non l'ha piegato perché era un cancello molto robusto, ma il motore l'aveva incendiato, il cancello dal contraccolpo come è partito è andato a fine corsa, è uscito fuori dalla guida, se trova uno lo ammazza, quell'anno mi sono cagato veramente sotto, infatti come ti ho detto a te, quando poi avevo montato le direttive, avevo sempre paura, fortunatamente è andato bene. Adesso qua non ho montato niente, non piatto niente, anche se potrei fare un lavoro veramente di lusso qua, veramente di lusso, però non piatto niente. Bene ragazzi, sono le 8:25, io vi ringrazio per le due chiacchiere, ciao Fabrizio, ciao Roberto, Gianfranco se sei ancora all'ascolto, chiunque fosse sul 10, io mi allontano per deliberare il piatto e vabbè, se è fattibile magari ci sentiamo dopo, altrimenti a domani, il cambio per te, ascolto i finali, poi chiudo, ciao. Sì, anche da poco vado, tanto faccio ora anche io, ciao Claudio, molto grazie per la chiacchierata, vai Fabrizio. Sì, va bene, anche io ti saluto, anche io vado e lascio vedere i capelli al bambino prima che vado a mangiare, dai, ci sentiamo. Ciao a tutti e due. Ciao Fabri, anche a te. L'ultima cosa, ma quanto costa lo scherzo assicurativo, quello aggiuntivo Fabri? Guarda, io c'ho, ma c'è una linea di 200 euro all'anno, io la pulizia che c'ho io c'ho, bella pulizia, non che c'ho, furto incendio, responsabilità civile dei bambini, se scherzo gioca a pallone, mi rompe la televisione, ma io penso che sono intorno ai 350 euro all'anno, guarda, se ti mando la mia pulizia, così la vedo. Ma ti ha detto, scusa, non ho capito, quant'è l'importo? Io pago intorno ai 350, ma la pulizia solo per l'antenne siamo circa 200 euro all'anno. No, quindi non è una cifra esagerata, no, anche a noi, chiudendo il discorso, anche a noi in officina hanno fatto danno, hanno mandato la 380, erano anzi 400 volt al posto della 220, si è bruciato compressore, altre cose, e poi giù ai punti all'impianto di illuminazione del campo lo stesso, li hanno sciolti i fari, infatti ce l'hanno cambiati tutti nuovi. Sì, è così, quando capita, purtroppo per la nostra più dimostrabile. Va bene, dai, io vi mollo che devo fare delle cose. E io, ciao Fabrizio, ci sentiamo con calma. Voi ricordatevi con la Ferrari, quando c'è 5 minuti di tempo mi dà qualche informazione più precisa. Ok, e mi pare c'è anche Natalino. Natalino, ci sei ancora? E avanti, come entrare? Se vuoi entrare, entra. Io rimango ancora un pochettino in QRX, tanto sto facendo altre cose qua. Ok, avanti, chi vuole entrare? Ehi là, eccomi! Tanto adesso che se ne sono andati Antonio, Claudio e Fabrizio, anche io rimango qualche minuto ancora, poi mangio qualcosa e poi mi guardo la partita. Gappa, e suga, hanno mandato la corrente a voce, ma non è l'unica volta, poi ci hanno pagato l'ultima lira, devo dire quello, sono stati velocissimi, vabbè, c'era gente che si conosceva all'epoca, che era proprio in quel settore lì, sono venuti, verificato, senza dire neanche basta, quanto è il danno? 1000 euro, tu e pagani, così fare giù ai punti, quelli ci hanno cambiati tutti, ma sono diventati, hanno cambiato colore, erano i bianchi, sono diventati rossi, io non sto scherzando, li accendevi e diventavano rossi anziché bianchi. Il fuori mare cosa l'hanno dato? Ma quella non erano a LED i fari, erano ad alta pressione, quelli tipo che usano le strade, dai, con le lampade ad alta pressione, non sono alogene, quando sono tutti a 220 sfasati, vabbè, dalla 380 poi li fasavi e li dividivi le fasi, per dire una fase alimentata una linea, l'altra un'altra linea, eccetera, e arriva guarda, più di 400 volt, perché non so se avevano fatto la gambina, boh, del successo, hanno sbagliato, dai, dei cavi, l'ordine dei cavi, e sono diventati rossicci, ti ricordi alle luci gialle, quando c'erano il periodo delle luci arancioni, così, tu fai conto, un faro bianco, è diventato così, scaldato, non so cosa gli hanno fatto, boh, e non sono esplosi, però hanno cambiato colore, sono diventati appassiti russi. Cappa, invece gli dai tanta potenza, è logico, ecco una lampadina se gli dai molta potenza, è logico che si brucia o diventa, diventa. I LED, le macchine nuove, non so se le hai viste, quasi tutte hanno i fanalini a LED, tutte di nuova generazione, più economico, più durevole e tutto, di lì cambiano la tensione, il LED è sempre quello, cioè tu le apri, c'è sempre dello stesso colore, vedete di là 9 volt, la centralina diventa giallo, non giallo, arancione per la freccia, poi viene da 10 diventa rosso, viene da 15 diventa bianco, tutto con lo stesso LED identico, cambiano le tensioni, gestisce la centralina, infatti ho fatto delle prove. Ho detto, ma a me da un po', chissà perché, ho tolto un fanalino rotto, si è rotto solo l'involucro e il freno, e c'erano queste lamelle di LED, ho detto, si a vedere che la cosa, li toccavi da una parte e diventavano rossi, poi li alimentavi dall'altra parte e erano verdi, e c'erano tanti connettori, tanti fili, dai, e cosa, secondo me tu li vedevi sembravano identici i LED, dico, ma come mai questo è bianco lo stesso e diventa rosso, o arancione o bianco, poi ti fanno quell'effetto tipo odore di Natale, vroom, però ce le hai mai viste le nuove Volkswagen, le Audi, che ti fanno quelle frecce che sembrano che scorrono? Vedi, è tutta una questione di tensioni, cambiano la tensione, per dire, anziché dargliene 9 o 12 o 15, loro gestisce una centralina, queste cose qua, e ti cambia, anziché tu prima c'avevi una lampadina per la freccia, e c'era la parte della freccia del fanalino arancione, poi per lo stop era rosso, poi c'era la lampadina a due luci che faceva una più forte, tirava lo stop e quella più bassa la posizione. La retromarcia c'era il trasparente bianco anziché in modo che la luce aveva, e invece la negava tutto il faro, lo vedi senza questi colori, tutto di un colore, cambia solo il colore della lampadina, in questo caso il LED, ed è molto più bello e durevole, solo che costano un'esagerazione, i fari a LED, i fanali, non i fari non li cerchiamo, che quelli sono fuori mercato, i fanali dietro a LED costano una cifra spaventosa, e quando se ne brucia uno, ti rampi tutto, non è che dice ci cambia la lampadina, c'è buttare tutto. Ma c'è buffonendici. Hanno delle cifre da paura, ma anche un fanalino che per dire a filamento, per dire quelli normali lo paghi 150, adesso li trovi 500-600 euro, di un cascai nuovo 670 euro, lo stesso faro nella versione precedente quasi identico come forma, perché la scocca era uguale, hanno più o meno la stessa forma, lo pagavi per dire 200 euro, adesso quasi 700 euro, solo che l'hanno i bussoli LED. Ma chi ci della BMW portare 1000 euro? Ma tu hai comprato un faro Oxeno e poi mi torna la risposta. Adesso stanno un po' diminuendo i prezzi perché li stanno facendo in grandi serie, ma quando sono usciti 1200, 1300, 1700, cioè poi ci sono quelli che ti seguono anche quando fai la curva, quelli autoregolanti alla curva, quelli possono costare anche 1800 euro. Poi non parliamo di fari a LED, proprio fari a LED, anteriori. Il faro Oxeno, tra l'altro la centralina quasi mai te lo danno, le devi recuperare dall'altro faro. Ma non è giusto però pagare così tanto. Lo so, purtroppo non sono molte le marche che lo costruiscono, saranno nel mondo 4 o 5, forse neanche ci arrivano, e per cui hanno il monopolio loro e gestiscono loro, e quello è il problema, purtroppo, ormai tutto sta aumentando, i ricambi, cioè se tu ti sbatti, non è la manodopera, tu chiedi 100 di manodopera, ce ne vogliono 500 di ricambi, il rapporto è 1 a 5. Per me è esagerato, per me, no, non è giusto. Ma tu Anto, lo sai quanto costava una macchina? Hanno fatto il conto, hanno confrontato l'Alfetta, uscita negli anni 80, dai, col periodo di là, l'Alfetta l'hanno paragonata alla Giulia di adesso, la stessa macchina, vabbè, non è la stessa macchina, parliamo come categoria di macchina, la Giulia nel 1978-80 costava 16 milioni, la stessa macchina della stessa categoria, segmento si chiama, costa 60.000 euro. Tu mi dirai, adesso c'è il computer di bordo, le ruote più grandi, i sedili, non so, documenti, tutto il sistema allucinante di motore, eccetera, eccetera, costa 60.000 €50.000. La stessa macchina costava, stessa, parliamo di categoria come confronto, 16 milioni, che sarebbero 16 milioni sarebbero 8.000 euro. Fate un conto, tu adesso la paghi €60.000, una macchina di quella categoria degli anni 80. Non so, 10 volte di più. Ma lo sto dicendo, ho fatto le prove con 4 ruote, l'ho preso apposta a 4 ruote, perché ci volevo avere questo confronto, ho fatto tutto, frenata, velocità, ripresa, consumo, tutto quello possibile e immaginabile, e sono in detrazione interna, hanno fatto le prove proprio complete, c'è un abisso di qualità, e di motore, non ne parliamo, di piedi frenata, eccetera, eccetera, tutto un'altra categoria, però cacchio, tu fai conto che una cosa che costava 8.000 euro, adesso l'hanno rapportata, quella macchina lì costerebbe 15.000 euro, diciamo, con l'inflazione, tutto il discorso, cacchio, però la stai pagando 60.000 euro, la stessa, diciamo, tipologia di macchina. Già lo so, io l'ho vista così, e se no non costa lo stelvio, cazzo. Ma ti posso dire, lo stelvio fa parte di una categoria di macchine dove ci sono macchine di un certo pregio, e parliamo del Q7, dell'Audi Q5, eccetera, quella categoria di macchine, e non è più caro, anzi ti devo dire costa anche meno, come cosa, tu la volevi confrontare alla, a chi c'è l'altra che te la fa, la BMW, eccetera, l'X5 della BMW, e quelle costano molto molto di più, certo che spendere 50.000 euro di base costano in mare 50.000 euro, ti compra un appartamento a Giomani. Non so già, però sono macchine prestigiose. C'è anche quello che ha 510 cavalli, che è una bestia. Era veramente una macchina fuori dal normale. Lo stesso, adesso forse l'hanno battuto, aveva fatto il record con la versione da 600 cavalli a Nürburgring in Germania, cioè aveva il record dei SUV, il più veloce di tutti, come la Giulietta aveva fatto, no la Giulietta scusa, la Giulia, io poco fa ho detto Giulietta, invece volevo dire Giulia, la Giulia, cioè aveva il record sino a poco tempo fa nel circuito di Nürburgring in Germania, ha stracciato a tutti, ma macchine molto ma molto più potenti, e tipo Porsche e cose del genere, ha crepato a tutti. Adesso è stata ribattuta dalla BMW, però è una macchina da corsa, gli hanno tolto tutto, alleggerita, gli hanno tolto i sedili, hanno lasciato solo 2 sedili per guidare, si può dire una macchina da gara, non è una macchina per circolare, l'hanno alleggerita di non so quanto, e quella lì è riuscita di un peluzzino a battere il coso, la Giulia, se no ha ammazzato a tutti. Grazie, uno deve, o lo fa bene o lo fa male, il lavoro, cioè il coso, è logico se la alleggerisci, è così. E già Rodrigo, ma hanno messo freni carboceramici, un sacco di cose in più che ti danno delle prestazioni. Sei presente, hanno fatto la prova di frenata con la Giulia, rispetto al Mercedes AMG, quello che era il top del top all'epoca, alla BMW e cosa, ha frenato 15 metri prima. Lo sai, vuol dire, se tu fai una frenata a 100 km orari, è vero, ha frenato 15 metri di meno degli altri, della concorrenza, e alla fine se ti salva la vita, per dire, ti trovi un sacco di colpo, questo frena 15 metri meno degli altri, delle altre macchine, c'è un impianto frenante della Giulia, la paura spaventosa, a livello di Ferrari, cioè di macchine di categorie di gran lunga superiori sportive. Già lo so, è una bella gran bella macchina, anche di sterzo dicono che è buonissima. Sì, no, è il top, adesso vabbè, ci sono, diciamo la Giulia ci avrà 4 anni adesso, 4-5 anni adesso, non mi ricordo quanti ne ha, piano piano si evolve la concorrenza, quando è uscita ha sguaragliato tutta la concorrenza, non ce n'era per nessuno, è stata costruita per avere il massimo delle prestazioni, tenuta di strada, allucinante, frenata, esterno, tutto, in tutto per tutto era superiore a tutti, ma di gran lunga. Adesso c'è la BMW che ha fatto quest'altra versione M, però diciamo una versione particolare, serie limitata, fatta con alettoni, prese d'aria particolare, tutto proprio per cercare di sfruttare al meglio le prestazioni della macchina. Eccola lì, di un peluzzino è andata meglio a Nürburgring, ma stiamo parlando, anziché metterci per dire 3 minuti, mi sembra ci vogliono 3 minuti per fare il giro, perché una pista non so quanti chilometri è, meglio da 20 km o 15 km, quella lì ci ha messo per dire 2 secondi in meno. Ma il telaio è buono proprio quando è così, non è perché molte volte non è detto che dice è il motore più potente, sì, ma se la macchina non tiene, di annai dura per il motore più potente, vince sempre quella là. Cioè, cosa fate? Appena appena di più fate, ma non di più. Perché una macchina che tiene, una macchina che non tiene, non è che sia un granché. No, è fondamentale. Addirittura il telaio della cosa, della, come si chiama? Dell'Alfa Romeo Giulia, quella la GTA, quello lì ci portava un motore molto ma molto più potente, sovradimensionato il telaio, perché c'è un sacco di materiale in lega leggera, carbonio, eccetera, eccetera. Al contrario di altre macchine che sono di derivazione normale, diciamo, stradale. Non sportivo, l'avevo fatta proprio per concorrere a battere dei record con la macchina lì. E ti posso dire, pur avendo mi pare 4 o 5 anni, la Giulia è ancora all'avanguardia nella sua categoria, non viene mai nessuno. Hanno cercato di rivalutare il marchio Alfa Romeo, perché negli anni, sino agli anni 80-85 Alfa Romeo nel mondo non c'era niente di meglio, era famosa per la sportività, dicevano sempre Alfa Romeo, più della Ferrari era conosciuta, la Ferrari era solo per il discorso delle gare, boh, però se tu volevi una macchina di uso quotidiano numero uno era Alfa Romeo, gli altri erano, venivano 10 anni dopo. Già lo so, non venire allora no BMW, tutti si cazzate da va, che poi boh, non so cosa ci tengono a avere queste macchine. C'era solo l'Alfa, c'era l'Alfa, allora c'erano le Alfa, le Fiat sportive, se volevi qualcosa in più e basta, cioè non veniva tutti quanti che si marchi che si andava e si gangate. Sì, ormai il mercato italiano ce n'è troppa di concorrenza, hanno entrato prima i giapponesi, adesso ci sono i coreani, adesso stanno entrando i cinesi, la gente cosa succede adesso, capite? Le macchine cinesi prima ridevamo, adesso stanno entrando a fare già qualcosa di carino, le DR sono macchine abbastanza valide, costano pochissimo, ma proprio non dico la metà, ma molto meno, almeno il 40% in meno di una uguale macchina confrontabile della concorrenza. Sono macchine che piano piano, perché poi gli allestimenti glieli fanno qua in Italia, vengono delle scocche, poi li mettono gli interni in Italia, li mettono qualche cosina per abbellirle e renderle più carine, perché sono disegnate qua in Italia e costruite di là in Cina. E qua vedi come è successo dei telefonini, abbasso tutti i cinesi, prima telefonino cinese, non te fa vergogna, vai a comprarti adesso il cellulare cinese e sono il top del top, qualità prezzo parliamo, poi puoi trovare magari qualcosa di meglio per certe cose, però quando è uscita la UE tutti ridevano in faccia, me lo devi regalare, ho detto il telefonino, io la UE l'ho preso nel 2010 mi sembra, o 2008 non me lo ricordo, e tutti ridevano in faccia, aspetta, poi mi ho preso lo Xiaomi e tutti, ma cosa hai trovato Xiaomi, adesso sono tutti con lo Xiaomi, e ce ne sono anche altri di marchi cinesi validissimi che costano poco e sono assolutamente convenienti. È vero. Chi su Apple costa un sacco di denaro se vi annuda. Vabbè, quando è uscito per certe cose era l'avanguardia, ha tirato cose che poi sono state copiate da tutti gli altri, quelli Android, quelli che hanno copiato dal coso, dalla Apple. Ma io un telefonino Samsung, so forse se me lo regalano, ma a comprare non me ne comprerei mai perché costa un'esagerazione e con quei soldi te ne compri due simili, non dico parità di prestazioni, però ci sono i Xiaomi, l'ultimo che è uscito, che per certi versi se lo mette in tasca al Samsung, all'S21, l'ultimo che è uscito non me la metto nel mazzo, come la Huawei per certe cose, in campo fotografico è anche meglio, poi se vuoi il processore più veloce del mondo magari c'è anche di meglio, però dipende da cosa deve fare, ma prima quando bigliavi roba cinese si mettevi a ridere, adesso stanno entrando anche a fare gli apparati radioamatoriali cinesi e piano piano entreranno anche loro nel mercato e vedrai che tutte le marchi grossi, Yaesu e KMW cominceranno a abbassare la cresta. Un baracchino cinese te bigliamo. E cosa? A proposito esce un baracchino cinese, esce. E perché quei 3.900 quella roba lì che ci sono in giro, quella sono giapponesi? Cinese? È tutta roba cinese, scoppiazzata magari da quello che posso dire, da un presidente, cose così, loro se li modificano, se fanno tutte le cose che vogliono loro, rimpiccioliscono, ci mettono un altro nome e te lo fanno uguale. Ma stanno facendo amplificatori domestici per alta fedeltà, identici, ma proprio sputtati, anche il marchio, a marchi super prestigiosi del mondo. E loro se li progettano a conto loro. Tu mi dirai, la componentistica ancora non è a livello di un Macintosh o di marchi famosi come quello lì, però cacchio, tu li vedi, e cos'è questa mista? O casse e diffusori acustici, mi dirai non hai la stessa qualità dell'altoparlante, però cacchio, se quello costa 10.000 euro e tu me lo vendi a 2.000 euro, molto simile, cacchio, la musica cambia, uno ci fa. E così adesso devi vedere gli apparati radioamatoriali cinesi a 200-300 euro completissimi, vabbè 200 euro no, parliamo 400 euro, apparecchi simili della Kenwood o della Icom che costano 1.500-2.000 euro e loro te lo danno intorno ai 500-600 euro con le stesse più o meno caratteristiche, non dico prestazioni, ma abbastanza simili, però costano un quarto. A che giorno fanno un apparato CB proprio? Mettono cincillà e funziona su queste bande, ma proprio che lo vendono i cinesi. Ma scusa, ma tu i Boafenga li conosci? Ce l'ho. Non li hai mai sentiti? Ce l'ho, ce l'ho. E dove ti credi che l'abbiamo fatto il Boafenga? In Cina. Appunto, quindi c'è un bibanda, c'è monobanda, ce ne sono per le V, per le U, hai visto quanti watt tirano, c'hanno lo scanner incorporato, e quanto li paghi? 40 euro, 45 euro, massimo. Vai a comprarlo della Icom uguale, con quelle un bibanda cosa ti costa? Già lo so, e quel Boafeng vorrei che fa anche l'apparecchio CB prima o poi. Ma fanno tutto, cioè lui dipende da cosa importano in Italia, e tu senti su AliExpress e c'è chi apparati trasmittenti, tu guarda cosa c'è, ma fanno stazioni radio, noi stiamo parlando di giocati, io parlo di cose super professionali, di impianti di trasmissione dal traliccio alle antenne, ai trasmettitori, ai filtri, ti mette le mani in testa, arriva una potenza da paura, ma cose, io ho visto le prestazioni, ti mette le mani in testa, ma costano un quarto, un quinto di un apparato di marchio famoso. E anche ho visto dei camper, ma in Cina, tu vedrai ancora le monete, ma tu vedi i prezzi, c'è un camper che tu lo paghi 50.000 euro, di lì lo paghi 12-13.000 euro e stanno iniziando a entrare in Italia, quelli li stanno importando e vedrai tra qualche anno cosa annesci, ammazzano il mercato quelli. Comprati un'intera che è cinese, poi me ne dai la risposta di quanto costa. Perché l'intera non è mica cinese, no? E che te l'hai fatta te? L'intera è nata in Cina, è cinese, caspita, quindi è cinese al 100% e c'ha la ditta l'intera Europa in Germania e tra l'altro l'intera si è assorbito anche la Rote Schwarz, non so se mi spiego. Io pensavo l'intera fosse come si chiama? Tedesca, figurati, quindi meglio ancora. Solo che costano 600, col portatile che ti ho fatto vedere io costa sono alle 620-630. Vabbè, ma lì stiamo parlando di altre cose, stiamo parlando di altri generi di operazione, di lavoro, lavorative. Però parliamo di un apparato, tu prenditi un bibanda della IAESU, quello semplice, ma lo paghi meno di 250 euro. Prendi il Boafeng, molto simile, mi dirai non saranno le stesse prestazioni, ecco, molto simile lo paghi 40 euro, il rapporto è questo. Sì, scusa tu, però poi te devi anche guardare bene questi apparati. La Cina se fa roba buona, fa roba buona. Se fa roba di consumo generalizzato, fa roba di consumo generalizzato. Non puoi paragonare né un Kenwood né un Icom e neanche un Yaesu a certi apparecchi cinesi, quantomeno la Baofeng, che è proprio quella a più basso livello che puoi trovare, perché è proprio essenziale al massimo, se no non lo potrebbe neanche loro lo potrebbero dare a quei titoli, capito? Il costo è quello, perché è proprio, noi diremmo macio fecca, ed è così, tant'è vero che da test che ho effettuato, Itera con vari apparati, Baofeng, l'altra che non mi ricordo come si chiama, praticamente sono inusabili, quindi non so se mi spiego. No, assolutamente, il discorso vero era solo quello, che stanno iniziando con questi da 40 euro, ma se vuoi spendere qualcosa in più ce li hanno le cose belle, io li ho visti degli apparati che magari anziché 250 li paghi 120 per fare il rapporto, però ti posso dire esiste, se vai a cercare c'è roba buona come i cellulari, ci sono quelli scaccini come hai detto tu, ciofecche, e ci sono i marchi importanti tipo Xiaomi, si chiamata, Huawei, Poco, cioè sono almeno 6 o 7 di marchi importanti. E per vedere, Huawei è il secondo produttore mondiale di coso, di telefonini, e diventerà primo prima o poi. Riprendi Antu. E tu la pastasciotta cinese la mangi? Ma se la vuoi muro in mezzo all'anche, io mangio la pastasciotta sarda. Neanche quella italiana, roba. Anche quella italiana, sì. Con i vermicelli la fanno la pastasciotta, non è vita quando la vendono, che scrivo io quando entro solo a vederli. Io quando ho città mercato, per dire, ci sono allo Shan, al Carrefour, quelli che vendono lo sushi, io mi giro dall'altra parte e mi viene da rimettere, non so, cioè i miei figli diventano scemi per andare a comprare a mangiare. Solo a vederle mi fanno rimettere, non vuole assaggiare, vai dove stai andando, gli dici. Lì giù ci si mangia niente. Eppure c'è un cibo, non mi viene il nome adesso, che è quanto per noi gli spaghetti, in pratica dovrebbero essere spaghetti, che è un'alimentazione generalizzata come per noi la pasta asciutta. È nella Corea, in Cina e poi un altro paese. E loro praticamente adorano questa cosa come noi, adoriamo gli spaghetti. Sembrano degli spaghetti, a dire il vero, però non ho idea di come siano conditi, se sono più o meno identici.